Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla terza puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Io sono Stefano Lanciotti e, come ormai sono certo che vi ricorderete, sono l'autore. Nella scorsa puntata vi ho parlato di come è nata in me l'idea di scrivere un romanzo fantasy. Romanzo, peraltro, che è diventato il primo di un'esalogia e ha poi anche dato lo spunto alla mia produzione letteraria attuale. Oggi vorrei parlarvi dei miei personaggi. Ma per farlo dobbiamo ancora una volta tornare alle fonti di ispirazione che ho avuto. Come forse ricorderete, le letture adolescenziali che avevo avuto comprendevano tutti i grandi classici del genere, ma è innegabile che il mondo fantastico che più mi aveva colpito e influenzato era stato quello che Robert Erwin Howard descrive nella saga di Conan di Cimmeria, Conan il Barbaro. E d'altra parte, il sottogenere che preferivo era proprio la cosiddetta heroic fantasy, più che quella classica dei romanzi di Tolkien e Brooks, spesso chiamata high fantasy dagli anglosassoni, che pure mi piaceva. Mi piaceva di questo mondo di Howard il fatto che fosse principalmente umano, senza elfi, gnomi, nani, troll, in cui le creature contro cui combattono i protagonisti sono generate da una magia corrotta, nera come i loro animi. D'altra parte, ciò che veramente non trovavo nelle mie corde era la concezione superomistica dell'eroe. Conan il Barbaro è un uomo fortissimo, bravissimo nell'uso delle armi, in grado di sopraffare molti nemici contemporaneamente, in pratica senza aiuto. Quando mi sono trovato a creare i personaggi dei miei romanzi, a partire proprio da Ex Tenebris, ho invece seguito quello che io chiamo la tecnica Marvel, dove per Marvel sta un'azienda americana famosissima che produce una buona parte dei supereroi. Cioè creare supereroi con super problemi. Ho pensato cioè a persone che con per una casualità di cui non hanno alcuna responsabilità, hanno poteri superiori agli altri. All'inizio non sono però in grado di controllarli, poi lo fanno solo a costo di un prezzo da pagare sempre più alto in termini fisici ed emotivi. Diana, la protagonista principale della saga di Nocturnia, è in balia del potere oscuro, una forza che dona capacità magiche, ma che consuma anche fino a quasi ucciderla, in pratica per tutta la prima trilogia. Anche il fatto di usare una ragazza piuttosto che un ragazzo è stata una precisa scelta. È difficile che una donna sia protagonista di un romanzo fantasy, ma quando lo è in genere ha caratteristiche maschili, combatte benissimo, oppure è molto abile con l'arco o possiede una magia potente. In Ex Tenebris la sua impotenza è quasi irritante, lo dico perché mi è stato fatto notare più di una volta, ma a mio parere è proprio questa sua fragilità che la rende più verosimile, visto che, non ce lo dimentichiamo, è pur sempre una ragazza che è vissuta per 16 anni a New York e viene catapultata in un mondo di energia oscura e creature orrende, mentre il potere oscuro la divora come un cancro. L'altro protagonista, Tom, è un uomo altrettanto fragile, peraltro non più giovanissimo, una storia di sofferenza alle spalle e nulla da perdere. Il tratto che ritengo più interessante del suo personaggio è che lui si sforza di essere quello che non è, coraggioso, forte, deciso, per proteggere la giovane Diana. Lui infatti la vede sempre più come una figlia adottiva che va a sostituire il fantasma della sua figlia vera, morta bambina. Quando scrissi Ex Tenebris, mia moglie era incinta di Giulia, nostra figlia. Ho ragione di credere che i due personaggi rappresentino il mio inconscio di quel periodo, una specie di esorcismo perché la bimba che attendevamo nascesse sana, ma anche una promessa che avrei fatto veramente di tutto come Tom se non lo fosse stata. Bene, dopo questa mia rivelazione sulle paure di un padre, possiamo passare alla lettura del terzo capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 3, 6 maggio 1997. Ieri ha bussato il signor Liner. Lui e la figlia abitano da anni nella casa accanto, dove conducono una vita molto riservata. Credo che sia uno studioso. Tutto quello che so della figlia è che è una bellissima donna dai capelli e gli occhi neri come la notte. Ho sempre pensato che vengo dall'Europa dell'Est, a causa dell'accento che si avverte quando parlano. Non ho mai avuto occasione di approfondire la questione. Liner aveva in braccio una bambina piccolissima. Credo che sia nata da pochi giorni. Ho subito pensato che fosse la nipote, perché negli ultimi mesi ho intravisto la figlia solo una volta e mi è parso che avesse la pancia un po' in evidenza. Mi ero domandato chi fosse il padre, dato che, nonostante la sua notevole bellezza, non l'avevo mai vista con un uomo. Poi mi ero detto che in fondo non erano affari miei e la cosa era caduta nel dimenticatoio. Ma ora lui era sulla soglia di casa mia, con con un fagotto rosa pallido in braccio, dal quale spuntavano solo un ciuffo corvino e due manine minuscole. Liner aveva un'espressione molto preoccupata quando l'ho fatto accomodare nel mio salotto. Senza fare alcun preambolo, mi ha detto che sua figlia, la madre di Diana, la bimba che aveva in braccio, era morta dandola alla luce. La cosa mi ha addolorato. La notizia che mi aveva dato non era che la premessa a quello che mi avrebbe chiesto. Liner aveva urgenza di partire. Non poteva assolutamente portare la bimba con sé. Troppo pericoloso, ho detto. Non ho avuto la lucidità per chiedergli dove dovesse andare. Ho accettato, non so neppure io perché. Ho un ricordo confuso di quello che è successo nelle ore successive. Liner non mi ha detto quando sarebbe tornato, credo che non lo sapesse neppure lui, ma mi ha fatto capire che non si tratterà di una questione di pochi giorni. Nel frattempo mi ha lasciato le chiavi della sua casa. Dentro avrei trovato tutto quello che mi serve, ha detto. Appena avrò tempo, chiederò a Madame Rose di aiutarmi. Ora Diana piange. 11 maggio 1997. È passato qualche giorno da quando Liner è partito e io mi sto cominciando ad affezionare Diana. È una bambina tranquilla e intelligente, un po' triste forse, ma lo sarei anch'io se mia madre fosse morta, se non avessi conosciuto mai mio padre e se il mio unico parente mi avesse abbandonato a un vicino di casa. Prima di andare via, Liner mi ha dato le chiavi di casa sua e mi ha chiesto di avere cura di alcune cose. Pensavo si riferisse a molti oggetti d'oro che tiene in cassaforte. Sono moniti di fattura stranissima e, credo, molto preziosi. Sembrano antichi e mi ha detto che potrò disporne a mio piacimento se mi serviranno per avere cura di Diana. No, gli oggetti a cui si riferì Liner sono quattro libri. Tre sono di grandi dimensioni, con pesanti copertine di pelle. Sembra serpente, ma non ci giurerei. E pagine ricoperte di una fitta scrittura in un linguaggio del tutto sconosciuto. Mi ha addirittura detto di non avvicinarmi ad essi. In un primo momento quell'indicazione nel contesto mi è sembrata alquanto strana. Poi ho letto nel suo sguardo che non era preoccupato per loro, ma per me. Devo ammettere che quei libri, al solo guardarli, mi mettono a disagio. Il quarto libro è più piccolo e ha un aspetto più innocuo. Anch'esso sembra piuttosto antico, ma le sue pagine sono vuote. Liner mi ha detto che è molto importante, ma non mi ha spiegato perché. Ha bofonchiato qualcosa su un barco. 15 maggio 1997. Negli ultimi giorni sono andato varie volte a casa di Liner. È abbastanza chiaro che non tornerà a breve. Intanto è come se il velo che era riuscito a gettarmi davanti agli occhi si stia squarciando e io, poco a poco, riesco a vedere oltre. Ho trovato tra le sue cose un quadernetto scritto in un linguaggio che non conosco. Ma voglio impegnarmi a tradurlo. Liner teneva infatti degli appunti scritti sia nella nostra lingua che nella sua, quasi avesse dovuto usarli come libri di testo. 10 settembre 1997. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Sono riuscito a tradurre gli scritti di Liner e, devo confessarlo, è stato come se un baratro si sia spalancato di fronte a me. Le alternative sono due: o si tratta di un pazzo, oppure il mondo, come lo conosco, non sarà più lo stesso. Riporto il testo di Liner così come l'ho tradotto, con la speranza che sia stata la mia mente a immaginare questa storia e non veramente lui ad averla scritta. Dalle tenebre. Quella che oggi viene chiamata Notturnia, una volta era un mondo luminoso e accogliente. Un astro splendeva durante le giornate tiepide e le stelle brillavano nelle fresche notti. Gli uomini vivevano in armonia con la Madre Terra e lei faceva il loro dono delle messi e dei frutti degli alberi. L'unica magia che esisteva era detta la magia della parola e permetteva ai saggi che la conoscevano di usare una piccola parte del potere della Madre Terra per il bene di chi l'abitava. La serenità di questo mondo era però destinata ad avere termine. Un saggio di nome Taugot, nella sua ansia di conoscenza, usò la magia della parola per ferire la madre talmente in profondità da aprire la breccia. Da questo squarcio, Taugot scrutò realtà diverse dalla nostra e venne a contatto con quello che venne in seguito tristemente definito il potere oscuro. Questa forma di energia prende la sua immensa forza dal male, dall'odio, dalla crudeltà, però conferisce poteri sovrumani a chi ne accetta l'imperio e stringe un patto con essa, sacrificando quanto ha di più caro. La scoperta di Taugot, invece di spaventarlo e indurlo a tentare di chiudere la breccia, lo inebriò. Nel corso di un rituale empio, cedette la sua sanità mentale in cambio di poteri sconfinati. Quando la notizia si sparse, altre persone furono inebriate dalla brama di potere, senza essere spaventate dal prezzo da pagare. scoprirono presto che nessuno poteva padroneggiare il potere oscuro per intero, ma che a seconda delle proprie inclinazioni avrebbero potuto evocare esseri infernali dagli abissi, strappare corpi in putrefazione dalle grinfie adunche dell'ultima madre, oppure manipolare sostanze empie per piegare la natura ai loro voleri. Nacquero così le tre confraternite, gli evocatori, i negromanti e i maghi neri. Ognuno dei loro adepti traeva poteri dal patto che stipulavano con il potere oscuro, e ciascuno di loro poteva manipolarne solo una parte. Gli uomini che rifiutavano l'abominio dell'asservimento al male guardavano con preoccupazione le crescenti pretese degli adepti di Thaugott, finché il tutto non si risolse in una guerra aperta. Ma i poteri delle confraternite erano enormemente più grandi di quelli delle spade e delle frecce, e gli uomini cominciarono a perdere una battaglia dopo l'altra. L'uso del potere oscuro cominciò ad avvelenare la madre terra. Il sole si levò fino a scomparire e i giorni cominciarono a non essere più luminosi. Dopo che le stelle si furono spente come ceri, le notti divennero nere come drappi funebri. I campi davano sempre meno frutti e gli animali cominciarono a morire di malattie sconosciute. Esseri demoniaci vennero avvistati con sempre maggiore frequenza, prima nei boschi, poi ai margini dei villaggi. Il nostro mondo cominciò a essere chiamato Notturnia. Un mondo dove le ombre si intrecciavano maligne e presenze inquietanti vigilavano una notte senza stelle, dove il male tesseva la sua tela protetto dalle tenebre. Ma era scritto che non dovesse finire così. Si sparse la voce di una ragazza che riusciva a controllare il potere oscuro, tutto e senza limitazioni, senza aver pronunciato il patto, senza essersi inginocchiata per servirlo. Pur con il timore che suscitava un potere così enorme, la ragazza venne acclamata come paladina contro l'armata di Thaugott. Venne chiamata la Nera e sotto il suo comando gli eserciti degli uomini sconfissero lui e i suoi accoliti. Le confraternite vennero bandite ai confini di Notturnia e promisero fedeltà alla Nera, che venne acclamata al trono. La sua progenie, detta linea di sangue, regnò sul nostro mondo per molte generazioni. Ormai il potere oscuro aveva intriso il nostro mondo, rendendolo cupo e ostile. Ma le nere che si susseguirono riuscirono almeno a tenerne sotto controllo gli adepti. 15 settembre 1997. In un altro foglio coperto dalla sottile calligrafia di Liner ho trovato quest'altro appunto che fa propendere il mio giudizio per la follia di quest'uomo. Finora avevo sperato che si trattasse di immaginazione fervida, della trama di un libro, oppure magari di miti della sua terra natale che lui aveva messo per iscritto in qualche momento di nostalgia. Ora invece la narrazione si fa personale e io non oso credere a una sola parola. Però ho i brividi e trovo che le ombre che questa sera cingono la mia casa si sono fatte improvvisamente più scure. La guerra del buio. La linea di sangue regnò su Notturnia per molte generazioni, frustrando la brama di potere delle confraternite e controllando il potere oscuro. Ma era destino che il male riuscisse a rompere gli argini che la trattenevano a stento. La linea di sangue si indebolì progressivamente e passò sempre più tempo dalla nascita di una nera alla successiva. Venne il tempo in cui l'ultima nera morì, prima che sua figlia sviluppasse i poteri. Re Gremian salì al trono delle tenebre come reggente, ma il suo regno sarebbe durato poco. Una congiura delle tre confraternite diede inizio a quella che venne chiamata la guerra del buio. La rocca dalla quale Gremian regnava venne cinta d'assedio ed espugnata, nonostante il sacrificio di migliaia di soldati e gli incantesimi che io, Linerus, mago della parola, avevo intessuto per proteggerlo. Tutto sembrava perduto, ma io riuscii a sfuggire aprendo un varco tra i mondi e a rifugiarmi in questo dove mi trovo ora, portando con me la primogenita, Ossidiana, la re del trono. Per proteggerla dalla caccia spietata che le avrebbero dato le confraternite, ho creato tre sigilli. Tre grimori nei quali sono tracciati i rituali che vincolano le tre confraternite a Notturnia e impediscono che gli adepti possano varcare la soglia. Li ho portati con me, sbarrando così la loro strada per transitare su questo mondo. Sono passati anni da quando sono fuggito con Ossidiana da Notturnia, rifugiandomi sulla Terra. La ragazza è cresciuta ed è divenuta una giovane donna, senza sviluppare i poteri della nera. Come avevo supposto, il passaggio verso questo mondo, avvenuto prima che Ossidiana cominciasse a manifestare i sintomi, ne ha inibito la crescita. Questo è un bene, perché il potere oscuro, se non adeguatamente controllato, è come un mostro che ti divora le viscere. In questo mondo, così diverso dal nostro, non conosco i rituali per consacrare una nera, e lei potrebbe morire tra gli spasmi più orrendi. Ma non dimentico il mio compito. La linea di sangue deve essere preservata e prima o poi Ossidiana genererà una figlia. Fintanto che sarà bambina non correrà pericolo, ma quando si manifesterà il segno dovrà essere riportata su Notturnia velocemente, prima che il potere oscuro la fagociti. Altri appunti, più recenti, sembrano confermare che Liner avesse scambiato definitivamente fantasia e realtà, forse a causa della tragica scomparsa della donna che credevo essere sua figlia. I miei incubi peggiori si sono avverati. Nel momento del parto, Ossidiana è morta improvvisamente, senza alcun preavviso. La bambina è salva, in buona salute, ma ho paura per lei. Ho il timore che nel momento della nostra fuga, Ossidiana sia stata vittima di una maledizione e che essa non abbia finora offerto solo perché non ha mai sviluppato i suoi poteri. È possibile che il solo portare in grembo la nuova nera abbia risvegliato il maleficio, ma non ho certezze. Potrebbe darsi che qualcuno abbia trovato il modo di infrangere i sigilli e abbia lanciato un sortilegio a cavallo tra i mondi. Non oso pensare a cosa potrebbe succedere se questo fosse vero, ma non posso attendere inerte. Il tempo scorre in maniera diversa qui rispetto a Notturnia, e nei pochi anni che abbiamo passato su questo mondo si sono succeduti secoli nel nostro. La guerra del buio potrebbe essere terminata. Un nuovo Thaugott potrebbe aver riunito sotto il suo pugno d'acciaio le confraternite e assieme potrebbero aver trovato una crepa nei sigilli. Devo attraversare di nuovo il varco e sapere la verità. Dovrò lasciare Diana in mani fidate. Ho tradotto tutto quanto Liner aveva lasciato scritto e ancora mi sto domandando se ho fatto bene. Non posso permettermi di credere neppure una parola e da oggi tenterò di dimenticare quell'uomo e di dedicarmi a Diana, che, piccola e innocente com'è, non dovrà mai sapere nulla della follia del nonno. Che forse non è neppure tale, almeno a leggere le sue parole. La considero una storia chiusa che rimarrà sigillata in questo diario.